Abbiamo deciso di sostenere, tutto sommato appoggiarci alla raccolta di fondi lanciata, il conto che è stato aperto da Banca Carige per raccogliere fondi appunto per le famiglie delle vittime. E abbiamo deciso di farlo con una piattaforma che si chiama GoFundMe, quindi GoFundMe.com, su cui è possibile trovare la raccolta fondi, e facilita perché anziché versare tramite bonifico è possibile versare anche con PayPal, carta di credito, insomma, per semplificare le operazioni per chi volesse dare il proprio contributo, sapendo che, come dire, in questo momento a distanza e in questa situazione, più che donare soldi è difficile poter fare qualcosa, però sicuramente ci sarà chi ha voglia di sentirsi utile, insomma, in questo modo. Certo, anche perché immagino ci siano anche tanti cittadini e cittadine fuori da Genova che vogliono poter dare una mano, ma questo è l'unico modo concreto. Come fare, quindi? Dunque, sul GoFundMe.com si trova il link alla campagna, che dovrebbe essere stato messo in evidenza in home page. In ogni caso, stiamo andando nella sezione emergenze, si può trovare, e da lì con un paio di clic si dona da 5 euro a quanto si vuole, insomma. Abbiamo posto come obiettivo 100.000 euro, però ovviamente con tutte le cifre che arriveranno saranno benvenute. Il titolo appunto della pagina è "Per le vittime del crollo di Genova", così insomma abbiamo dato anche riferimenti inequivocabili.